là dove sei tu, terra di nessuno. Sotto il cielo tuo nuvole di fumo, ogni vento che ci passa lascia la speranza e non torna indietro mai. Dove sei tu, niente ha più sapore, ogni schiavitù morde le catene. Nelle tue notti senza stelle cambi la tua pelle e nascondi il cuore. Sei tu, tutto non è niente, fai prostrare a te anche il più potente. Poi le ferite da leccare per poi calpestare ogni virtù col male. Io ti vincerò, terra di nessuno, e ti strapperò le tue vesti e il cuore. Ti farò tornar bambina, ti terrò vicina, fino a che sei mia. Io lo so chi sei, bambino.